paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself. Obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly. Cause I know from a night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby. Cause you just ain't another girl like me. Cause you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, it's don't worry. Now I'm pulling the chains, so it's flush. Out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sore. I think you've been smoking way too much more. Cause I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, is that questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di Associazione W Naia. Attenti, sì, cara sì, sì. Dobbiamo ricordarci di fare le foto, eh? Sì. Associazione? Sì. Ti posso introdurre al primordio del W? Del W, sì. Ce l'abbiamo in rete, in linea, senti, senti. Aiuto. Eccolo. Eccomi. Now I'm pulling the chains, so it's flush. Out my veins, out the drain. Flush, you're lucky, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each one will meet my friends. Flush, sorry love, what was that all I heard? Benvenuti alla 132esima puntata di Coxo Spaziale. Per la prima volta mi trovo a co-condurre il programma insieme a un'entità singolare e plurale, ad un'associazione multiforme, con una presidentessa. E abbiamo in linea telefonica anche il grande W. Grande poco, perché sono ammalato. Ma sentilo, oh. Non ti ho mai sentito con una voce così seriosa. Hai visto? Ho una voce bassissima oggi. Ecco, complimenti. No, fra l'altro la vita non è giusta per niente. È il 3 marzo e è appena cominciato l'Armory Show a New York. Il Metropolitan Museum ha inaugurato una mostra incredibile di capolavori non finiti, si chiama Unfinished. Beh, interessante. Molto. Cioè, 500 anni di capolavori non finiti. Meraviglioso. Deve essere una roba spaventoso. E la vita è ingiusta, perché ti avevano fatto l'invito con tanto di biglietto aereo, andato e ritorno, per te, la famiglia e gli studenti più affezionati. E ti tu sei ammalato. Giusto? Non proprio. Diciamo che devo essere in Italia, perché ci sono le tesi la settimana prossima e le mie studentesse mi ucciderebbero se andassi a New York. Ah, oltre al direttore, che probabilmente mi licenzierebbe. In tronco. Beh, ma insomma. In tronco, fra l'altro. Non, come mi fa pensare alla segatura degli alberi, no? Quando casca giù il tronco. Ah, ok. Mi fa pensare, ma così, cozzicamente. Sono depressa. Bene. Allora, questa puntata sta iniziando come una sferzata di energia. Quello è un malato, quell'altro è depresso. Ma per fortuna noi siamo bipolari. Ma per fortuna abbiamo con noi un'associazione mentale, galattica, tossica. Esatto. No, in realtà qui con noi fisicamente c'è Irma Ridolfini, attrice e presidente dell'associazione Nahia, che abbiamo già conosciuto, te la ricordi, Stefano? Certo, era la gnocca, fra l'altro. Guarda, detto con questa voce da subwoofer, poi quasi mi emoziono. Sì, no, era proprio entrato Nicola proprio in quel momento, quando lo stavo per dire, e non era il caso. E vabbè. Nicola è il mio figlio di 8 anni. Sì, si intuiva. Che ci manca tantissimo, perché qualche volta ce lo portavi, anche se sempre sì, più recalcitrante. No, tra l'altro, guarda, oggi avevo, vabbè, che ormai lo dico tutte le settimane, però avevo intenzione di farti la sorpresa e venire invece di... Prova a farcela durante il mese di marzo, così avrai anche l'occasione di incontrare questa entità certo. Singolare, poi si moltiplicherà nel corso delle puntate, perché Irma, e non solo lei, altri rappresentanti dell'associazione Nahia con l'H in mezzo, saranno qui per tutto il mese di marzo e ci apriranno gli orizzonti del Coxo, lo faranno viaggiare nei territori del teatro. È un mese horror. Hai capito? È sparito. Ho capito. Ma sai che sto conoscendo dei teatranti anche a Torino ultimamente. Ah, ma lì ce ne sono un sacco. Fra l'altro, fanno un festival di si chiama Teatro di Figura. Fanno un festival internazionale di teatro di figura. Ma noi avremo anche modo durante questo mese di parlare anche di teatro, cioè non proprio di figura, ma comunque no, di teatro circo. No, però di teatro circo, teatro musicale. Teatro francese, un pochino di ispirazione francese, come appunto il teatro di figura, perché la matrice viene da lì. E quindi sei sempre avanti anche tu, caro W. Hai visto? Allora, adesso ti lascio alle tue coltri, al tuo sudario. Sì, tra l'altro sono a letto a impaginare un catalogo. Ascoltaci di sottofondo, che se facciamo in tempo poi ti chiamiamo per chiederti il beneplacito del W, ok? Molto bene. Va bene, allora è stato bello, e noi ritorniamo tra poco. E un bacio. Arrivederci al grande W. Ciao. Ciao. Ti fanno i complimenti e ti danno consigli finti. C'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Questa è solo fuligine, ah, fuligine, resta solo fuligine, ah. Datti una motivazione per la tua emancipazione, fatti fare un tatuaggio, oh, oh. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo, oh oh. Né sfigato né finocchio. Occhio. Fuligine, questa è solo fuligine, ah, fuligine, resta solo fuligine, bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua. tirato fuori l'arma. Metti qui una bella ferma. Fuliggine, questa è solo fuliggine. Ah, fuliggine, resta solo fuliggine. Ah. Oh, leggimi il labiale, io non sono un cantautore. Io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembri un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuliggine, questa è solo fuliggine. Cosa. 132esima puntata di Coxo Spaziale inaugura le co-conduzioni del mese di marzo la super mega galattica presidentessa dell'associazione NAIA, l'associazione culturale NAIA, Irma Ridolfini. Eccola qui. Buonasera. Con noi, che non sapeva come aprire qualcosa. Che cosa, cara? No, non so come leggere una delle menzioni, ma poi lo dirai. Ma vedete come brava Stefano W, tu che ci stai ascoltando, per vedere se si meriterà la carica di W per il mese di marzo. Guarda che si stava già portando avanti, cioè qua c'è gente precisa sul pezzo. Sul pezzo, come effettivamente vorrei fare un saluto in merito al brano che abbiamo appena ascoltato. E infatti siamo qui ad incaricare di W una nuova realtà e abbiamo appena ascoltato un brano di colei che ha inaugurato le co-conduzioni in veste W, Roberta Giallo, che salutiamo caramente. Che ciao, Roberta. Cercatela su Facebook o su Google, perché in realtà è in pienissima attività anche qui a Bologna. Ciao Roberta e ciao di nuovo a te, Irma. Sono contentissima, ciao, di averti qui come ospite anziana coxica. Sei già venuta a diverse occasioni. Anche nella fatidica puntata che abbiamo realizzato e spedito da Parigi, ma che non è mai giunta, esatto, alle frequenze. Esatto, e questa è una grande pecca al W Briarava, lo diciamo, giusto? No, la pecca è tutta mia, purtroppo. Era un motivo come però, un altro per... salutiamo il W Briarava, che è stato il secondo... Ciao Massimiliano. Co-conduttore di dicembre. Poi abbiamo avuto quelli del 2016, e di cui anche voi come entità singolare, moltiplicata, molto multiforme, no? E così come multiforme in realtà è il teatro, perché sì, alla fine, a partire anche da questa, il teatro contemporaneo, quello non tanto inteso contemporaneo come magari di ricerca, come può essere l'arte contemporanea, ma contemporaneo, cioè del che presente, si fa adesso, ecco, quello che stiamo cercando in varie forme, si cerca di fare e si fa realmente, perché alla fine voi siete attivi da diversi anni, sì, ormai dal 2012, belli, giovani, creativi, siete tanti anche. Beh sì, siamo tanti come gruppo esteso, non dico che arriviamo ai 10, però ovviamente poi fissi su Bologna siamo 2-3. La nostra casa ospita meandri di persone. Poi siete variegati. Molto, moltissimo, e ci stiamo aprendo sempre di più a... alle comunicazioni. Sì, e a diverse correnti, come vedremo, con anche altre realtà, magari bolognesi, con cui stiamo cercando di dare struttura un po' organizzativa più solida. E ecco, infatti, come avevamo un po' anticipato, nel corso del mese andremo ad aprire finestre sulle realtà che fanno teatro qui. E esatto, questo coinvolge anche una domanda che di solito è: perché lo fai? In realtà abbiamo anche un tema. Tema. Sì, perché questa W è preparatissima, mi è arrivata addirittura col tema del mese. Tema. E il tema è... E il tema, signora maestra, è: come voglio fare da grande? Che mai applicato al teatro potrebbe trovare una risposta, una collocazione migliore. Cosa ho detto? Sì. Non lo so. Non no, lo no, so. Io ti ho capito, quindi sicuramente anche gli altri. No, si parla tanto di cosa si vuole fare. Noi iniziamo ad aver capito che cosa vogliamo fare, e il punto è come, nel senso che il teatro contemporaneo non è più il teatro che fai, faccio l'attore, sì, e quindi ti scritturano questa cosa. non esiste più e purtroppo esisterà sempre di meno, o forse per fortuna, non so. E quindi siamo alla ricerca di capire come fare questo mestiere. Ed ecco. Infatti c'è anche la questione che Nahia è un'associazione culturale, ma in realtà la sua vocazione sarebbe quella della compagnia teatrale. Compagnia teatrale. Solo che oggigiorno la maggior parte delle persone che si uniscono con l'idea di creare una compagnia per lavorare nel teatro hanno come strumento quello dell'associazione. Il primo appoggio che si trova è l'associazione culturale, anche perché spesso non si hanno le risorse per attivare qualcosa di più grosso, come potrebbe essere per esempio una cooperativa. E ci sono tantissimi modi. Noi stessi siamo passati attraverso diverse fasi e quindi le domande che io vorrei porre anche nell'arco di questo mese agli ospiti che incontreremo sono quindi cosa come? Si fa, come si fa, specifichiamo un po' meglio questa cosa del come, perché magari per chi ci ascolta che non è molto non è perché sono anche cose che sono più comprensibili da dentro ovviamente e quindi sì, come, cioè si gestisce uno spazio, in questo spazio che si fa, si fanno delle attività che vanno oltre la messa in scena, quindi i laboratori per esempio che ormai sono diventati la fonte di reddito per un sacco di attori, oppure si gestisce uno spazio come programmazione, quindi sì, io ho la mia compagnia ma ne ospito delle altre, creo delle residenze, oppure non ho lo spazio, quindi produco, mi appoggio a spazi che esistono già per realizzare i miei spettacoli che poi però devo cercare di far circuitare. E queste sono tutte le problematiche e le incognite. Quest'ultimo in particolare come modus operandi è il modus delle residenze creative, che molto spesso aderisce come modalità anche a quello delle ricerche artistiche, insomma. Esatto, hanno delle modalità simili. E detto a questo c'è anche il come affrontare in realtà la professione dell'attore, è attore, è performer. Ad esempio ieri ero ad un evento molto interessante sul tema del lavoro alla Fondazione MAST e a moderare c'era un attore che in realtà come attore quello che fa è moderare piuttosto che produrre dei testi, fare ricerche e produrre un blog, però lui si è definito come attore, quindi sì. è un mestiere in trasformazione, in evoluzione, si evolve il teatro cambia il rapporto delle persone con il teatro, quindi di conseguenza cambiano anche gli attori, è inevitabile, non è una cosa negativa, l'unico aspetto negativo è non riuscire appunto sempre a farne un mestiere anche remunerato. Ecco. Tra l'altro la conferenza di cui ti ho accennato era concentrata sul tema del precariato per la maggior parte. Ecco, appunto. Che è una nuova categoria. Che insomma. Comunque qui vedo che il super mega smartphone di cui la radio si è dotata continua a lampeggiare, perciò io lo dico 333 180 94 94 per che cosa? Per scriverci. Scriverci. Per chiamarci. No, scriverci. Beh, insomma, io l'ho detto, poi fatevi quello che volete. Esatto. L'informazione l'avete avuta. Ma adesso che abbiamo fatto un po' un cappello generale del perché lo fai, anche del forse del come, abbiamo un po' introdotto il termine del come, andiamo un po' più nello specifico nel come l'avete fatto voi di Nahia. Come l'abbiamo fatto noi. Però io direi introduciamo con un brano che sicuramente farà sbrelluccicare i ricordi di tutte le persone nate sulla fine del Novecento come me, con la che prima delle Ivona c'era qualcun altro ma non mi ricordo chi fosse, io mi ricordo la versione della Ivona Zanicchi. Sì, io mi ricordo da sempre questa. E allora sentitevi questa e poi sentite come è stato ritrasformato dalla nostra associazione Nahia. Thank you. Mo la parur di pentole mi costa direi 24.000 lire. Ho detto giusto. Ok, il prezzo è giusto. Cioè, un pezzone della mia infanzia. Mi ricordo ancora il televisore, che era ancora in bianco e nero nel caso della mia famiglia, era grandone, e io ero lì sul tappeto di moquette verde che la guardavo ed ero preparatissima. Tutti i prezzi. Avrò avuto tra i 6 e gli 8, credo. Non lo so, erano gli anni 80. Un'economa pazzesca della tua vita. diciamo di no, forse devo guardarlo meglio. Tutti noi che abbiamo scelto queste strade. Ma chi c'era interne prima della Iva Zanicchi? Ma chi se lo ricorda? Ce n'era. Ah, c'era Gigi Sabani. Oh, oddio. Un altro pezzone da 90, sì, però sì. Poi tu devi sapere che io sono cresciuta in una famiglia comunista, per cui si guardava solo Rai 3. Quindi a me arrivavano echi di Mediaset. Esiste la TV privata. Sì, che meraviglia. Chissà come sarebbero andate le cose, ma lasciamo perdere questi viaggi nostalgici e ritorniamo al presente. Perché abbiamo proposto ai nostri coxonauti questo tema musicale? Tema musicale, perché, come è capitato anche di parlare, di raccontare in puntate in cui eravamo ospiti e non co-conduttori, da tempo lavoriamo sul tema della televisione, sul tema dei media, sul tema del rapporto tra l'uomo e l'immagine. Con Catodico Oltre lo Schermo abbiamo sviluppato una sorta di zapping scenico interattivo, in cui abbiamo interattivo. Sì, questa è un po' una chicca dello spettacolo, quindi il pubblico cambia canale fondamentalmente oppure sceglie. Quanto sia veramente libera o pilotata questa scelta lo lascio decidere a chi vedrà lo spettacolo, che tra l'altro andrà in scena il 19 marzo. Perché, se non ricordo male, voi eravate venuti in quel dell'estate o poco prima per parlare di Catodico, che era stato preso ad una manifestazione. Sì, perché poi abbiamo partecipato al Brisa, Bologna riunisce i suoi artisti, il concorso di Arci Bologna, e abbiamo vinto il premio della giuria popolare ex equo con i Respirale Teatro, nostri grandi amici e diciamo compagnia gemellata ormai, ecco, diciamo, infatti. E quindi il premio consisteva nel presentare lo spettacolo completo, perché all'interno del concorso sono stati presentati solo 20 minuti e questa presentazione verrà fatta il 19 marzo allo Spazio Eco di Casalecchio. E io questa volta non me lo perderò. Ci sarà anche Fedra e ospite d'onore. Telecomando in mano. Esatto. E quindi ci sarà questo doppio spettacolo, quindi alle 18.30 Again by Now con dei Respirale Teatro, pausa aperitivo alle 19.30. Va bene, ma di questo parleremo ci sarà poi modo la prossima settimana, credo. Vai. Che sai che le menzioni, dai cara, ci fanno settimana, certo, in settimana, certo. Era pur parler. Ma quindi tra i 20 minuti di quest'estate e la data di questo mese avete fatto dei lavori di espansione o lo spettacolo era già pronto e avevate presentato? No, lo spettacolo estratto in realtà era già pronto, abbiamo presentato un estratto, però abbiamo iniziato a meditare sul sequel. Meraviglioso, visto che le serie tirano un sacco. Esatto, il Catodico 2.0, ecco. Che, se non sbaglio, poi il lavoro catodico è stato lavorato in residenza. Sì, è nato dentro una residenza offerta dal comune di Solarolo, che ogni anno mette a disposizione questo ex chiesa e con foresteria per giovani produzioni, e quindi a febbraio dell'anno scorso è stata presentata l'anteprima. Dopodiché a giugno c'è stata una ripresa allo Spazio Oz di Bologna, adesso si va avanti. E quindi, giusto per essere dal particolare all'emblematico, una giovane compagnia che voglia realizzare un lavoro teatrale solitamente può fare anche, compiere anche questo tipo di percorso, fondare un'associazione, formalizzare un'idea e partecipare ad un bando, ottenere una residenza creativa dove cominciare a studiare e a dare un'impaginazione scenica al lavoro, che è molto importante perché giustamente bisogna avere il polso di quello che verrà visto, cioè la fase di residenza è estremamente fondamentale. E dopodiché, una volta che si ha una documentazione, cominciare a partecipare promuovere a questi concorsi garantiscono e a interfacciarsi direttamente anche con i teatri e i direttori artistici di rassegne varie. Detto questo, tutti ci rendiamo conto che le parti che abbiamo escluso sono, non so, il sostegno alla produzione, ecco, esistono anche bandi fortunatamente di sostegno alla produzione, è difficile. Ma sai che in Francia la maggior parte dei lavori partono prima dell'ideazione, ancora dalla considerazione sul budget, certo, perché lì il lavoro d'artista, d'artista in generale, ma anche d'attore in particolare, è riconosciuto in una maniera completamente diversa, cioè qui non è riconosciuto e quindi il lavoro degli attori lì è pagato. Hanno perfino la disoccupazione, una cosa incredibile. Questa gente che va a divertirsi, francesi, mamma mia. Va bene, detto questo, non so se c'è il tempo per attraversare già adesso un'altra vostra produzione, la prima. La prima, vediamo. Vediamo un pochino, sono le 26, faccio partire un po' l'audio. Vediamo cosa riusciamo a sentire. E sempre lei l'avrebbe trattenuta subito. Io ho pensato che se lei batteva per un po', in 2-3 sere potevamo tirar su quella somma che ci serviva per superare il brutto momento, no? E lei si è incazzata. Nell'aggiornamento delle denunce di scomparsa, alle 4 di domenica mattina l'elenco è sempre lungo. Le mamme si preoccupano. Sento qualcosa rompersi di botto contro di me. Ora so che il corpo che stiamo per vedere è quello di mia figlia. Elisa Orlando era la fidanzata di Lucy. E non lo sapevo per morte. Mi servirebbero altri testimoni! Mi chiede se la conosco. Non la conosco! Ma si è fatto solo una chinata qua per siamo aperta qualcuno il sabato sera, no? Vado in camera sua. E qui succede qualcosa di strano. Ma è un lavoro pulp. Assolutamente pulp. Mi ricorda tantissimo, insomma, dei gialli con le pistole. Di cosa si tratta? Questa è stata la nostra prima produzione, un testo di Fausto Paravidino, Natura morta in un fosso, che racconta dell'indagine attorno all'omicidio di una ragazza che viene ritrovata nuda e ammazzata di botte lungo il fosso di una strada statale. Vedi, partiamo così, partiamo con i cadaveri. Ambientato a teatro. Sì, cioè è un testo molto particolare quello di Paravidino, perché è un testo che procede per monologhi, quindi ci sono sei personaggi che di monologo in monologo portano avanti questa indagine. È un vero e proprio giallo, quindi sino alla fine non si capisce, non si sa chi è l'assassino, e tutto questo in una realtà piccola provincia del nord Italia, con spaccini che vengono interrogati da ispettori ossessionati dall'idea che la stampa non metta le mani su questo caso, la madre della vittima, il fidanzato della vittima, una prostituta, questo è tutta il ragazzino discotecaro che ritrova il cadavere perché si schianta contro un albero mentre torna a casa ubriaco, e scendendo dalla macchina si ritrova. Una scelta bella decisa come primo lavoro. Sì, assolutamente. È stato molto connotante per noi. E di questo magari anche ritorneremo a parlare. Assolutamente. Non subito dopo la pubblicità, ma dopo la pubblicità è quell'altra cosa che sai. Che sappiamo. Intanto io mando un gingolino e la pubblicità delle 7:30. E fai col jingle. Chissà se è pulp. We'll be right back. performance, ricerca, teatro. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. 132esima puntata di Coxo Spaziale, sto inaugurando la co-conduzione mensile di marzo insieme alla presidentessa dell'associazione Nahia, Irma Ridolfini, preparatissima, infatti tu sai benissimo che cosa c'è adesso. Adesso abbiamo in linea. Abbiamo, prima che cosa? Che cosa prima cosa? Abbiamo, eccolo qua. Il giungolino. L'angolo della menzione. Ma su questa molti dei New W si inciampano spesso, lo faccio quasi come giochino. Comunque sì, abbiamo un breve testo per introdurre il nostro primo ospite telefonico delle menzioni. Sì, che è Stefano Uzzo Crea. Esatto. Adesso lo devo trovare. è in fondo al foglio. Che praticamente ecco. Noi l'ho invitato in maniera particolare perché proprio abbiamo parlato del processo esatto, creativo e di come fare teatro. E infatti Stefano Cuzzo Crea è qui per presentarci il primo maggio del lavoro. Ecco, quindi è ancora aperto il bando per partecipare alla prima edizione del primo maggio del lavoro, progetto di ospitalità per una residenza creativa all'ex convento dei Cappuccini del 1600, situato in un piccolo borgo della costa tirrenica calabrese, Belmonte Calabro. L'invito è rivolto ai singoli artisti oppure ai collettivi, associazioni, cooperative o altro che operano nel campo del teatro, musica, interventi interdisciplinari e performance. È con noi Stefano Cuzzo Crea. Ciao Stefano. Ciao, grazie per l'invito. Benvenuto. Fantastica la presentazione che avete fatto, insomma, meglio di me. Vabbè, ma in realtà ho avuto la fortuna di parlare con lui nel pomeriggio e mi ha già introdotto a questa splendida progettualità. Raccontaci un po' meglio nel dettaglio cosa cercate, qual è il rapporto col territorio, forse anche qualcosa della struttura che vi ospita, che deve essere molto suggestiva. Sì, cioè noi lavoriamo in realtà intorno allo spazio, o meglio, lo spazio che in qualche modo ci ha imposto di lavorare. Come dicevate, appunto, è un ex convento del 1600, dove è anche per fortuna casa nostra, quindi in questo caso lo spazio privato che diventa. Sì, siamo abbastanza fortunati. Complimenti. Un edificio fantastico che si apre appunto al mare tirrenico. Distanze pochi chilometri. Mi adottate? È un luogo, sì, per cui puoi venire, potete venire anzi. Grazie. Si sta molto bene perché appunto è un luogo che evoca da in sé una storia lunga, le sue acque sorgive, i nostri orti, perché ci siamo anche dedicati appunto agli orti, abbiamo degli orti sinergici, l'agrumeto, e in questo spazio, che è uno spazio appunto dentro fuori, aperto chiuso, pubblico privato, abbiamo da molti anni, in realtà Paola già da 10 anni, la mia compagna, io da 3 anni, 4 anni appunto ho iniziato a collaborare con lei, abbiamo sempre pensato lo spazio come uno spazio che si apre verso l'esterno, si apre anche alla comunità, e sapersi in questo sovrapporre progetti che vanno dal teatro alla musica, al cibo, stiamo portando avanti un progetto di residenza che è iniziato già nel 2013, dove ospitammo una band musicale, la Bruno Risas, che circommessi di residenza qui da noi per realizzare il suo album. E poi da questo progetto, rendendoci anche conto che il lavoro dell'attore è anche un lavoro che incontra tantissime difficoltà, il titolo è un po' anche provocatorio, perché il primo maggio del lavoro in questo caso noi pensiamo si debba appunto lavorare, perché spesso il lavoro dell'attore è un lavoro che viene mal pagato, c'è poco anche in queste miriade di regole, di contributi da pensare, di giornate lavorative appunto da accumulare. Spesso il teatro è diventato una formula ministeriale, invece noi vogliamo ritornare a un'idea di spazio come spazio creativo, e quindi pensiamo che il nostro luogo, per come lo gestiamo, possa essere un luogo ideale da dedicare all'atto poetico. Come dicevate, il bando scade il 30 marzo, ci ci sarà una giuria, un osservatorio critico, dove è presieduto da me e da Dario De Luca di Scena Verticale, Ernesto Rico che è un performer calabrese e Tommaso Chimenti. Andremo a selezionare quattro progetti che verranno invitati il 1° maggio e poi durante la giornata del 1° maggio, questa festa appunto anche del teatro, si assegnerà la residenza creativa vera e propria che si svolgerà negli ultimi giorni di ottobre. Chiaramente è un progetto che vive di logiche che sono quelle di essere autofinanziato, non percepiamo finanziamenti pubblici, quindi non siamo in grado di attribuire nessun tipo di premio, di contributo creativo all'attore, al collettivo, al gruppo che andremo poi a ospitare nel mese di ottobre. Ed è un lavoro corale, perché il progetto appunto è nato anche grazie al supporto e alla collaborazione di altri soggetti sul territorio o comunque dell'area calabrese. È un progetto felice, perché appunto ci piace condividere con altri anche il nostro spazio. Ecco, anche questo è un modo di fare teatro, tra l'altro. Certo, sì, sì. E fra l'altro Stefano ti ringrazio tantissimo e ti chiedo scusa, ma purtroppo i tempi radiofonici sono un po' stringenti. No, grazie a voi, grazie a voi. Comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com i link per andare ad approfondire e anche vedere e scaricare il bando per partecipare. E penso proprio che almeno qui quelle che sono qui in diretta dalla radio, due proposte ti arrivano di subito. Di grazie. Grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Presto. A ciao, presto. Ciao. Ciao. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. E rieccoci ancora qui insieme alla super mega galattica co-conduttrice del mese di marzo, Irma Ridolfini, presidentessa, mi piace un sacco dirlo, dell'associazione culturale Nahia, in realtà intimamente compagnia teatrale. E comunque non facciamoci distrarre, siamo ancora qui al... l'angolo della menzione. Sabato 5, ore 15:30, Pasolini fra di noi, at abc.bo, un evento itinerante, un pomeriggio per le strade del centro storico, un piccolo corteo che porta voci, canti e musica in memoria di Pierpaolo Pasolini nel giorno del 94esimo anniversario della sua nascita. L'appuntamento è per le 15:30 in via Borgo Nuovo 2, e sotto la lapide che ricorda la casa natale del poeta. E... ore 21, Caldane, sempre sabato 5, Caldane al Teatro Comunale di Pieve di Cento. È qui il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento di Vocazioni, che è la rassegna di spettacoli diretta da Matteo Belli e Maurizio Sangirardi, per le case, oddio, mi sono dimenticata il nome dell'associazione, però forse Carossa. Sei una W con tutti, tra un po' vado a casa anch'io, meravigliosa. Vede protagonista Anna Meacci, e precede l'evento un incontro pomeridiano dal titolo Il Comico, istruzioni per l'uso, durante il quale la celebre attrice toscana intende svelare alcuni retroscena della sua ricerca pluridecennale attorno ai meccanismi del comico. L'incontro è moderato da Michele Pascarella e noi in questo preciso istante abbiamo la super mega galattica seconda ospite telefonica della 132esima puntata del Coxo, niente po' di meno che Anna Meacci. Meraviglia, con le fanfare, grande. ciao Anna, grazie per aver accettato l'invito a raccontarci qualcosa di più di questo spettacolo che si chiama Caldane e parla ovviamente di qualche cosa che dal mio punto di vista è un tema molto interessante. Ecco, diciamo che già il titolo svela l'argomento che io tratto con leggerezza, ironia, con alcune punte di amarezza, e racconta il percorso attraverso della vita di una donna, attraverso il periodo, diciamo, quello che a mio giudizio è quello un pochino più pesante della propria vita, che è la menopausa. Ecco, dai, ecco, l'abbiamo detta. Se ne parla, no? Se ne parla molto. Anzi, sembra proprio un tema rimosso nel contemporaneo, anche dalla televisione, ne abbiamo parlato prima. Come con tanti tabù la della femminilità. Perché non si invecchia, non si deve invecchiare, siamo sempre giovani, siamo sempre fighissime, siamo sempre... desiderabili. No, non è desiderabile, ma vedrai dopo i 40, vedrai dopo i 50, e dopo i 60, la fantastica. Grandi cavolate. Non è così per tutte quante le donne, però per me è stato un anno agghiacciante, quello del passaggio dalla possibilità di procreare alla fine della possibilità della procreazione. Parto da questo e racconto, insomma, tutto il percorso che ho fatto fino a quando decido di rivolgermi alla clinica per vedere di risollevarmi un po', e decido oltretutto cambiare, insomma, migliorare il mio aspetto estetico, perché mi rendo conto che, insomma, la forza di gravità comincia ad avere un effetto devastante, e decido di farmi il lifting. Decido di farmi un lifting perché mi dico, faccio una riflessione dicendo che è vero, le rughe raccontano la nostra storia, ma io mi voglio dimenticare di tutto. E poi dipende in effetti dalla qualità della storia. Ma comunque, quindi tu sei partita da un'esperienza, un momento, cioè, che è tanto personale quanto universale, per poi restituirlo in una maniera più ampia. Devo dire che io vedo il pubblico ridere finalmente in maniera come dire liberatoria, ma anche il pubblico maschile, finalmente posso ridere, che alla mia moglie gli posso di più nulla da 3 anni a sta parte. A proposito, allora, Cioè, questo lavoro vedo che l'hai, allora, ne sei autrice e insieme anche al regista Dodi Conti, dico bene? Sì, esatto, esattamente, con Dodi sono anni che scriviamo spettacoli assieme. Ora in questi ultimi anni, questi ultimi 3 o 4 i nuovi spettacoli scritti da sola, poi chissà, forse ritorneremo a riscrivere qualcosa assieme. Abbiamo scritto, credo, 4 spettacoli, 4 o 5 monologhi miei insieme. Quindi ci conosciamo talmente bene che adesso dovevamo non frequentarci per un po', per poi riconoscerci un'altra volta, perché abbiamo anche la menopausa. Esatto, detto, non vi siete lasciati niente. Caran, è stato un piacere averti qui con noi e non vedo l'ora che sia sabato. Fra l'altro ci sarà anche l'occasione di andare a fondo proprio anche negli aspetti più creativi e non lo so, di più anche del lavoro teatrale che ti compete, grazie all'incontro che ci sarà alle 5:30. Proverò a cercare più che altro di capirlo io all'inizio, perché ancora non lo so cosa. Dopo 30 anni che faccio questo lavoro, è interessante, però si scopre sempre, ecco sì, capito, quindi no, si dice che ogni giorno si deve andare a dormire avendo imparato una cosa nuova, e chissà che anche sabato sera non scopra cose nuove di me e del mio lavoro. Faremo in modo insieme di esserci per scoprirle insieme, dico bene? Ah, mi farebbe piacere, assolutamente, almeno così ci conosciamo. Ok, grazie mille intanto. E buon grazie lavoro, ciao. Grazie anche a voi, ciao, buona ciao. Serata, ciao. Non ti illudere, Ridolfini. Non è un brano, ma è una transizione, perché... Ma tu mi devi avvisare. Sono un W giovane. Una nuova W. Ma infatti adesso noi a questo punto di nuovo continuiamo con... L'angolo della menzione. Eccola. E c'è l'ultima menzione di domenica. Domenica 6 ore 17, essere mossi et leggere strutture, terzo incontro per i laboratori mensili di infiorescenze. I laboratori ideati per promuovere l'incontro e la sperimentazione tra danzatori e coreografi orbitanti a Bologna sono aperti a tutti ad offerta libera, e questo mese l'incontro sarà condotto da Caterina Basso. Dovevo farti sentire anche lo stacchetto di chiusura della menzione, che qui certo, con le troppe telefoniche poi mi ti confondevi. E invece devo dire che sei stata meravigliosa, e a questo punto non rimane che mandare un branino che mi permetta di chiamare Stefano e vedere se abbiamo passato la prova. Ecco. Sei emozionata? Molto, sì. E io che branino mando? Questo qua, che è un po' triste. Come on, police, I've given all I this is what you get when you mess with love. Devo ammettere che mi sento un po' in colpa e mi deprimo per questo ad interrompere un tale brano, cioè, però i tempi radiofonici stringono. E noi siamo arrivati all'ultima sessione della 132esima puntata di Coxo Spaziale e tu, cara pretendente al W del mese di marzo, associazione W, una IA, sarebbe bello, no? abbiamo in linea l'Original W, il grande W. E sì, sono qua. Bentornato. E mi sa che il momento solenne, una cosa. Che ha un verdetto, il verdetto della giuria del W. Ah no, devo dire che la nostra W è stata bravissima e molto radiofonica. Ah, qua? Sì? Grazie. Scusami. Fior fior di anni di studio, professionalità, declinazioni multiple. Devo dire che voi del mondo del teatro siete brave. Anche gnocche, vero? Beh, quello sempre. Ecco, meraviglioso. Comunque questa canzone mi ha fatto ricordare che sei depresso. Che 25 anni fa, oggi, nel 91, è successo il massacro di Rodney King, non so se te lo ricordi. No, era 25 anni fa, il 91. Mamma sì, mia, come vola il tempo. Il 3 marzo del 91 succede che, come succede, continua a succedere anche oggigiorno, giusto? Mm-hmm. E succedeva anche prima, insomma, comunque che tre poliziotti americani hanno cominciato a bastonare un nero, giusto così, alla cazzo, semplicemente perché era nero. E però la differenza qual è stata? Che nel 91 una telecamera cominciava a costare poco e allora qualcuno per caso aveva la telecamera in mano e abitava di fronte a dove stava succedendo questa cosa, per cui l'ha ripreso, e questo ha fatto sì che, diciamo, la storia della police brutality nel mondo ha leggermente cambiato di direzione, ma leggermente, ai noi, leggermente. Però cazzo, sono già passati 25 anni. Cavoli, 25 anni. E noi c'eravamo già. E c'era già stato, ok, il prezzo è giusto. Sì. Ma non c'era ancora stato Kama Police, che invece non mi ricordo, ma penso che sia del 96. Ci informeremo. Però effettivamente questa, mi ricordo che avevamo anche parlato di far la menzione dell'accadde un tot di anni fa, no? Lo introdurremo. Mm-hmm. Non lo so, magari potremmo recuperarla, che questa giovane W, che insomma me la vuoi investire in W ufficialmente? Cioè, ti sei preparato una frase, non lo so, un'incoronazione? Certo, io ti investo nel nome del W. Oh. Guarda, è saltata sulla sedia. Manco che prima, gioia. Prima ballava su OK il prezzo è giusto, quando ha sentito l'investitura mi si è scatenata. E adesso è ritornata, per fortuna. È un onore. È un onore per noi averti qui, è anche un onore per me sentire W in versione così seria. E sono malato. Anche se un po' depressa. Guarda, ecco. Che malato sei radiofonico anche tu, eh? Ti si abbassa. È vero, ho la voce più bassa, funziona bene. Sì, si sente anche meno la F. No, vabbè, quella è il telefono. No, ma quella, la tua F è bellissima, Stefano. Veramente, io non la riesco a fare con quella zeppolina perfetta che hai tu, e ci manchi. Sei molto cara. Con la lacrima adesso mi ride primo. Ma vuoi fare un'ultima domanda alla nostra co-conduttrice, magari per ritornare un po' ai temi delle cose che ha trattato riguardo al suo lavoro? No. Te va bene così? È tutto così, così chiaro o così non chiaro? Perché ovviamente siamo arrivati a quel momento in cui io ho mosso anche l'altro mouse e sto guardando all'altro monitor. Ti ricordi, Pasqua, che momento è? È il momento di uno Stefano migliore? Tra un po'. Tra un po' sarà il momento dello Stefano migliore e degli spot delle 8, ma se non mi compaiono faccio un po'. Beh, siamo comunque, vuoi raccontarci qualche aneddoto oppure te chiudo il telefono e te lascio lì a zagolare nel tuo letto fin tanto che non arriva l'ora di cena? Sono a pagina 58 di un documento di 90, certo. Per cui sono già sono arrivati anche gli spot. No, anche perché poi dopo il direttore si lamenta che siamo troppo autoreferenziali. No, vabbè, ma questa puntata è stata tutt'altro che, anzi, è stata autoreferenziale nel modo che piace a noi, ovvero che parlando di noi siamo andati a parlare di una condizione diffusa attraverso lo specchio che ci ha offerto la presidentessa dell'associazione. Ma allora è associazione W-NAIA o Irma W-NAIA? No, lasciamo associazione W-NAIA. C'era una bellissima frase di Walt Whitman che a me piace moltissimo, che dice: mi contraddico? E vabbè, mi contraddico. Io sono vasto, contengo moltitudini. E così è NAIA. E io su questa manderei gli spot. Che dite? Molto bella. Che c'ha tre orologi che fanno ore diverse, quindi vabbè. È fuso orario. La 132esima puntata di Coxo Spaziale è finita e abbiamo avuto, grazie al W Original, la conferma che per tutto il mese di marzo l'associazione W-NAIA sarà co-conduttrice di queste puntate. Viva Rodney King e viva le moltitudini. E viva il giovedì, il teatro e NAIA. Ciao Irma, grazie. Ciao. A giovedì prossimo. Ciao. A giovedì.